Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Je vous servirai au nom de notre devise: liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Vi servirò con l'amore che mi avete dato, e dice Macron, viva la Francia, naturalmente. Come poteva mancare questo classico, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo la vittoria di Emmanuel Macron, che era praticamente scontata, l'avevamo detto nelle scorse settimane, però lo stesso avete sentito questo clamore, questo entusiasmo da parte naturalmente dei suoi elettori, della folla che era lì radunata ad accoglierlo. Ne parleremo, ci soffermeremo un po' su un'analisi di questa vittoria contro Marine Le Pen. Allora, è vero, ha vinto l'Europa, la fiducia nell'Europa contro l'antieuropeismo, e bisogna però anche considerare che Macron intende un'Europa rinnovata, una rifondazione dell'Europa. Poi ci ne occuperemo più nello specifico, e ci occuperemo di varie cose come sempre, ricominciando la settimana di Effetto Notte. Per fra le altre, anche in chiusura, parleremo del mare più pulito in Italia, qual è in realtà. In queste bandiere blu che vengono assegnate ogni anno dalla FEDA, questa agenzia internazionale, stanno anche dei criteri relativi alla gestibilità sostenibile del territorio, quindi anche al riciclo dei rifiuti, ai servizi forniti. Però è interessante sapere, per esempio, che la Liguria è sempre ancora, si conferma, quella in testa. Ma poi scenderemo più nel dettaglio, quindi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Tra poco vi riassumo come sempre la giornata e poi cominceremo ad approfondire tutti i vari argomenti con gli ospiti. Per interagire qui Effetto Notte c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure un numero che vale per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Via con i titoli. Presidenziali francesi, inizia l'era Macron, domenica il passaggio di consegne con Hollande all'Eliseo, poi dalla Merkel, e la sinistra radicale già sul piede di guerra, tensione a un corteo. Barack Obama a Milano, l'ex presidente americano nel capoluogo lombardo in tilt per blocchi stradali, insieme a Renzi chiama Macron per congratularsi. Domani sarà ospite d'onore di Seed and Chips, the Global Food Innovation Summit, il vertice internazionale sull'innovazione del cibo alla fiera di Roppero. E poi per quanto riguarda l'emergenza migranti, sono 200 i morti in due naufragi al largo della Libia. Da inizio anno sono arrivate oltre 43.000 persone. L'incendio a Pomezia ha sequestrato l'impianto, la procura di Velletri ha incaricato l'ARPA di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. Inchiesta Consip, Gasparri conferma: ho preso 100.000 euro da Romeo. Legge elettorale, prove di dialogo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Mare, arrivano le bandiere blu, la Liguria si conferma regina, a seguire Toscana e Marche. Partiamo quindi dalle presidenziali francesi. Dopo la vittoria nelle elezioni, Emmanuel Macron comincia quindi la sua avventura presidenziale. Oggi c'è stato l'abbraccio con il presidente uscente Hollande all'Arco di Trionfo per festeggiare l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Domani avverrà il passaggio di potere tra i due. Macron intanto si è dimesso dalla presidenza di En Marche, che cambia nome e diventa La République En Marche. Berlino sarà la sua prima tappa all'estero, quindi incontrerà la Merkel come primo viaggio all'estero, e oggi si è svolto il primo corteo anti-Macron della sinistra radicale contraria alle sue politiche considerate ultraliberali. Tra poco ci collegheremo con Parigi. Intanto però parliamo delle reazioni internazionali a partire dalla Germania. Mi sono molto rallegrata per la grande vittoria di Emmanuel Macron, è portatore di speranza per milioni di francesi e per molte persone in Germania e in tutta Europa. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è congratulata con Macron per la sua campagna coraggiosa a favore dell'Europa. In mattinata è arrivato l'augurio di Vladimir Putin, che ha salutato l'elezione di Macron chiedendogli di superare la sfiducia reciproca e di unire le forze. Congratulazioni in mattinata anche dal Giappone, il cui premier Shinzo Abe si è detto lieto di lavorare in futuro Maduro con il nuovo presidente francese. Dell'Argentina alle congratulazioni del nostro capo dello Stato Sergio Mattarella, per il quale l'elezione di Macron costituisce una prova di fiducia nel futuro. Reazioni queste che si aggiungono a quelle arrivate ieri. Donald Trump ha dichiarato di non vedere l'ora di lavorare con Macron, lo stesso auspicio espresso dal premier israeliano Netanyahu e da quella britannica May, che ha parlato di priorità condivise. Dall'Italia Macron ha incassato il sostegno del premier Gentiloni, di Matteo Renzi, persino di Silvio Berlusconi. Quest'ultimo ha fatto scattare la reazione di Matteo Salvini. Chi crede di fare l'Italia schiava di questa Europa si scordi pure l'alleanza con la Lega, le parole del leader del Carroccio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi Renzi ha telefonato a Macron insieme all'ex presidente americano Barack Obama, che si trova in visita a Milano, centro città blindato per lui e accoglienza da rockstar. Tre piani dell'hotel a 5 stelle in pieno centro, dove soggiornò anche la moglie, e appuntamenti top secret prima dell'uscita pubblica a Seeds and Chips. Jeans e giubbotto di pelle per il viaggio, pranzo in hotel, poi cambio d'abito e la visita alla Pinacoteca Ambrosiana, prima di concedersi 40 minuti in Duomo, spostamenti in auto, con accoglienza da star da parte della folla che lo attendeva numerosa in strada. Rientro in albergo e l'incontro con il segretario del PD Renzi prima della riservatissima cena a Palazzo Clerici all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Domani il clou a Roffiera, la terza edizione di Seeds and Chips in concomitanza con la Milano Food Week. Con Obama sul palco Sam Kass, lo chef consigliere della Casa Bianca, artefice della svolta salutista a stelle e strisce. Ad ascoltarli 3.500 fortunati, molti VIP politici e chi ha potuto sborsare 850 euro per assistere all'evento. Annalita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso occupiamoci di borse. Calma piatta sui listini il giorno dopo la vittoria di Macron. I mercati avevano già scontato la notizia. Sui listini del vecchio continente sono scattate le prese di beneficio dopo la recente galoppata innescata dai risultati elettorali francesi del primo round. Sul finale Milano ha arginato le perdite allo 0,26%, nonostante la debolezza di diverse banche e di titoli del lusso. Piazza Affari al centro della relazione di Giuseppe Vegas, e non poteva essere altrimenti. Il presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha rimarcato come la borsa italiana si sia ristretta. Sentiamo il servizio di Moria Longo. La normativa sul bail-in, quella che colpisce azionisti e obbligazionisti nel caso in cui una banca vada in crisi, così com'è non funziona. Vanno aumentate le tutele per i risparmiatori, per esempio creando una soglia di protezione per chi possiede obbligazioni fino a 100.000 euro, e va ripensato anche il suo effetto retroattivo. Al suo ultimo discorso prima della scadenza del mandato, il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, entra nel vivo della grande rivoluzione normativa europea che ha interessato negli ultimi anni banche e mercati finanziari, e pone soprattutto l'accento sulle note dolenti. La prima, come detto, è la normativa del bail-in, il cui bilancio provvisorio, testuali parole di Vegas, non può dirsi positivo. La seconda nota dolente riguarda la nascita della vigilanza europea sulle banche, che, nata per uniformare la supervisione, sostiene Vegas, ha in parte contribuito ad apportare nuovi fattori di tensione. Infine Vegas punta il dito sulle pesanti cure imposte alle banche italiane, che nel breve periodo hanno aggravato il quadro di incertezza e di instabilità. Se guardando avanti Vegas parla con favore di tutte le regolamentazioni in arrivo su risparmio e vigilanza, guardando indietro invece il presidente della Consob mette insomma il dito su più di una piaga. E avanza anche qualche proposta. E adesso l'emergenza migranti. Anche nelle prossime ore è atteso lo sbarco di centinaia di persone soccorse al largo della Libia, dove però si registrano anche due naufragi. A proposito delle polemiche sul ruolo delle organizzazioni non governative, domani la Commissione Antimafia ascolterà il procuratore di Catania. Non si sono mai interrotti, anche in pieno inverno, ma ora che il tempo è migliore i viaggi dei migranti nel canale di Sicilia sono ripresi in gran numero, e con essi pure i naufragi, nel pieno delle polemiche sull'attività di soccorso delle ONG. Quasi 200 persone sarebbero disperse al largo della Libia dopo che i loro gommoni si sono capovolti. Incidenti innescati da quelle che sembrano essere le nuove modalità di viaggio degli scafisti. Ci hanno seguito su un altro gommone e poi hanno staccato il motore. Noi eravamo alla deriva, racconta. Sono alcuni sopravvissuti che parlano di 80 compagni di viaggio inghiottiti dal mare. Ma nelle stesse ore, al largo di Az-Zawiya, altre 113 persone, riferisce l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, finivano tra le onde, e almeno 9 erano bambini. Così si riprende la drammatica contabilità delle vittime del Mediterraneo, in giorni che hanno visto nuovi record di sbarchi, e altri ancora, quasi 6.000 addirittura, sono attesi dopo ripetuti salvataggi. Cifre che spingono l'alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi a sollecitare sforzi per salvare vite lungo questa rotta pericolosa. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ritorniamo all'incendio a Pomezia, ne abbiamo parlato venerdì quando è esploso. La procura di Velletri ha disposto il sequestro dell'impianto della Eco X sulla Pontina vicino Roma, dove appunto venerdì è scoppiato questo incendio. La procura ha inoltre incaricato l'ARPA, l'agenzia ambientale, di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. Poi su questo venerdì abbiamo sentito il sindaco di Pomezia Fucci, e tra poco sentiremo invece il presidente di Legambiente Lazio. Per l'inchiesta Consip, l'ex dirigente della Consip, della centro acquisti della pubblica amministrazione, Marco Gasparri, conferma: ho preso 100.000 euro da Alfredo Romeo per garantirgli consigli e informazioni sulle gare bandite in Consip. Gasparri lo ha confermato nel corso dell'incidente probatorio davanti al GIP di Roma, che è durato circa 5 ore. È indagato Gasparri per concorso in corruzione assieme all'imprenditore Romeo, che si trova in carcere dal 1 marzo scorso su richiesta del PM. La procura di Roma potrebbe chiedere a breve il giudizio immediato per entrambi gli indagati. La politica, con il dibattito che si concentra sulla legge elettorale, ci sono delle prove di confronto tra PD e Movimento 5 Stelle. La cautela è molta, visti i precedenti e soprattutto i rapporti quasi nulli che ci sono tra le due forze politiche, ma questa volta il percorso potrebbe almeno partire. Il Movimento 5 Stelle in una nota annuncia infatti di essere disposto ad aprire ad un dialogo in Commissione Affari Costituzionali che arrivi ad una sintesi tra il Legalicum e la proposta PD, a firma Fragomeli, formulata lo scorso marzo. Ad entrare nei dettagli per i grillini e Di Maio, che spiega: vogliamo scrivere le regole del gioco insieme al partito di maggioranza, il PD, perché ci sia chiarezza sul risultato dopo le prossime elezioni. L'unica cosa che io non toccherei è il premio alla lista, aggiunge il vicepresidente della Camera, perché se cominciamo a fare il premio alla coalizione finiamo per fare come Prodi con Mastella o Berlusconi con Fini. Se Di Maio e il Movimento 5 Stelle fanno sul serio, è possibile costruire in tempi rapidi un terreno di intesa, replica dal PD Richetti. L'importante è che l'impostazione anche per le liste conservi un impianto maggioritario. La legge elettorale si deve fare, spero, con il concorso di tutte le forze politiche, commenta dal centrodestra Berlusconi. Critiche invece dalla Lega, che parla di prove d'inciucio tra PD e 5 Stelle. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora all'estero, con questa dichiarazione del presidente dell'Iran, candidato riformista alle elezioni del 19 maggio, quindi tra pochi giorni, Hassan Rouhani, che ha detto, ha attaccato a sorpresa i suoi avversari, sostenendo che la nostra gioventù, quindi la gioventù iraniana, ha scelto il cammino della libertà e non si possono impedire il progresso e la libertà. Le prossime presidenziali, ha detto Rouhani, la gente dirà ancora una volta no a coloro che sapevano soltanto imprigionare e fare esecuzioni. Dallo stadio di Hamedan, città nella quale ha inaugurato la tratta ferroviaria Hamedan-Teheran, Rouhani ha detto che l'attuale governo intende connettere il paese al mondo. Una dichiarazione innovativa per l'Iran. Di nuovo in Italia con la cronaca: indagato per omicidio volontario e abbandono di minore, la sedicenne madre della neonata deceduta dopo essere stata abbandonata in un sacchetto in via Costalunga a Trieste. Una sedicenne che abitava proprio lì vicino al luogo della tragedia, sopra la fascia di ciottolato che circonda il giardino condominiale dove la neonata è stata ritrovata, avvolta in una borsa della spesa, a ridosso del muro del palazzo in cui la madre minorenne vive. Piccolissima, ancora in vita, la bimba era stata scoperta nel primo pomeriggio di ieri da un abitante della zona, avvertita dal fiuto del suo cane. Portata subito all'ospedale infantile di Trieste, si è spenta dopo 6 ore di disperati tentativi. Disperati come il gesto della madre, che così ha spiegato agli inquirenti: l'ho calata dal primo piano con una corda, dice, dopo aver partorito in casa. Nessuno se n'è accorto, neanche la madre, cuoca professionale, mestiere che stava apprendendo sua figlia, neppure il compagno che lavora presso una compagnia di assicurazione triestina. Tutti italiani, e ci sono molti punti oscuri in questa vicenda, che non è di degrado sociale, come afferma il procuratore capo Carlo Mastelloni. Si tratta di una minorenne, dice, figlia di una famiglia normale, direi piccolo borghese, denunciata ora a piede libero, ricoverata e sotto osservazione psichiatrica. La giovane madre e la sua tragedia passano sotto la giurisdizione della Procura dei Minori. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere, alleggeriamo un po' parlando di mare. Più pulito quest'anno sulle coste italiane, salgono infatti a 342 le spiagge sulle quali sventoleranno le bandiere blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education per questa 30ª edizione. Ci sono, queste bandiere sono assegnate sulla base di 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Poi ne parleremo col presidente della FE italiana. La Liguria si conferma regina del mare eccellente, arrivando a 27 località. Seguono poi, come lo scorso anno, la Toscana con 19 località e le Marche con 17. Cercheremo di capire anche meglio quali sono appunto i criteri con cui vengono assegnate queste bandiere, che non è soltanto la qualità del mare, dell'acqua. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte per la vostra interazione qui con la puntata. Intanto vedo già qualche spiritoso, alleggeriamo anche così. Balanzone che dice: Marine Le Pen, pigliati una Bastiglia, visto la Bastiglia, 14 luglio, l'anniversario della presa della Bastiglia. E poi qualcuno che già critica dice: è ovvio che il lacchè vada prima di tutto a trovare Madama Merkel, visto che Macron ha detto che vuole rinforzare l'asse franco-tedesco, rinsaldarlo, e come prima visita estera andrà appunto dalla cancelliera Merkel. Continuate con i vostri messaggi, ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Le notizie le avete sentite, tutte le più importanti ve le ho riassunte nel primo racconto, nel primo blocco della giornata, quel racconto che vi faccio sempre. Adesso cominciamo invece ad affrontare i vari argomenti, partendo naturalmente dalle presidenziali francesi. Per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Un altro ascoltatore dice: Marine Le Pen è la prova vivente che la buona politica non c'entra nulla con le questioni di genere. Ma di là di questo, chi l'ha detto? Nel senso che Marine Le Pen, c'è chi l'ha votata, chi non l'ha votata, al di là, insomma, quello che interessava era il suo programma, al di là che fosse un programma interessante o meno, e chi ha votato Macron lo ha votato perché ha preferito magari, diciamo, una visione più aperta, più poi c'è qualcuno che lo accusa di essere, dice sì, vi servirò con amore, come ha detto lui, conosciamo l'amore dei banchieri, dice un altro ascoltatore molto critico. Sempre su Macron, Simone dice: meno male che è stato eletto, ma il pallino lo ha in mano adesso la Merkel e la vedo dura. Laura dice: il 35% di francesi di estrema destra e mi spaventa. Ne parleremo a momenti, intanto se non avete acceso puntualmente alle 21 sapete che ogni tanto io vi ricordo i titoli principali. Dunque via all'era Macron in Francia, domenica sarà all'Eliseo per lo scambio con Hollande, ci sarà la consegna con il presidente uscente e poi andrà dalla Merkel. Intanto la sinistra radicale già oggi aveva organizzato delle manifestazioni di protesta contro Macron. Poi per quanto riguarda la politica italiana invece prove di dialogo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale. E poi l'inchiesta sulla Consip, la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione, Marco Gasparri, ex dirigente della Consip, conferma ebbi 100.000 euro da Romeo, dall'imprenditore Romeo che è in carcere da marzo. E poi sui rifiuti a Roma, duro scontro tra Zingaretti, presidente della regione, e la sindaca Raggi. C'è sempre la questione del rogo di Pomezia di venerdì scorso, con sigilli all'impianto che è stato sequestrato e l'allarme di diossina. Poi ne parleremo. Intanto c'è Obama a Milano per l'evento sul food seeds, sul cibo seeds and chips, vede Renzi per 2 ore, code con una super scorta di 24 auto, visita alla Pinacoteca Ambrosiana e al Duomo. E ancora le bandiere blu che sono state assegnate dalla FE, la Foundation for Environmental Education, le bandiere blu con la Liguria regina, e poi a seguire tra le spiagge più col mare più pulito e con più servizi Toscana e Marche, ne parleremo. Sentite l'acclamazione per la vittoria di Macron ieri al ballottaggio con Marine Le Pen, l'inno alla gioia, insomma, quindi che enfasi per questa vittoria che effettivamente, diciamo, era per molti versi, come voi sapete, scontata, già analisti, sondaggisti, eccetera, l'avevano detto da tempo, la previsione appunto era abbastanza banale, però comunque possiamo dire che è stata una sfida bella e che Macron è riuscito, diciamo, in poco tempo, facendo un movimento suo alla fine, anche se è stato ex ministro dell'economia di Hollande, a creare un movimento en marche che evidentemente, insomma, i suoi consensi, come sapete, li ha ottenuti, tanto che ha vinto con il 66% dei voti, mentre Marine Le Pen, leader del Front National, quindi della destra radicale, ha ottenuto il 34%. Quindi ieri domenica si è chiuso così il ballottaggio con questa vittoria. Possiamo dire che in sintesi essenzialmente ha vinto, come è stato detto più volte nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, ha vinto un convinto europeista contro una accanita anti-europeista che era diventata il riferimento un po' in tutta Europa per gli euroscettici, diciamo così, quelli che proprio insomma dell'Europa non ne volevano più sapere, dell'Unione Europea. E in questo modo si rinsalda anche l'asse franco-tedesco, perché nel programma, in quelle che erano le previsioni, le decisioni, le scelte di Macron, c'era anche questo di rinsaldare molto questo rapporto con la Germania. Ci colleghiamo subito col nostro inviato Sergio Nava a Parigi. Sergio? Ciao Roberta, buonasera. O dovrei dire Sergio a questo punto, per essere diciamo più nel clima. Senti, allora, la Merkel ha detto sono molto contenta, il suo portavoce ha detto Macron porta la speranza a milioni di francesi e anche di molte persone in Germania e in Europa. Quindi le conseguenze subito in Europa, insomma nei prossimi tempi in Europa, quali potrebbero essere di questa vittoria di Macron? Sicuramente un contraccolpo interessante dopo un 2016 che ci ha regalato Brexit e Trump e sembrava destabilizzare l'intera geopolitica mondiale, ma soprattutto europea, con i non ricordiamo insomma i vari Wilders in Olanda, la Le Pen in Francia, l'AfD in Germania, che sembravano ormai pronti ad assaltare il potere. Wilders non ha vinto, ha avuto un buon risultato, non ha vinto, la Le Pen è arrivata a ballottaggio, non ha vinto, i tedeschi dell'alternative a Deutschland sicuramente non si piazzeranno tra i primi due partiti. L'assalto dei populisti non è arrivato e forse possiamo solo sperare che l'Europa abbia imparato la lezione, perché c'erano delle lezioni che l'Europa doveva imparare e che adesso proceda veramente con un'integrazione ben fatta, anche con pochi paesi. E su questo Macron, è interessante notare come sia un fautore di un budget per l'Eurozona, di un ministro delle finanze dell'Eurozona, chiaramente ristretto ad alcuni paesi, non a tutti, però è quello che serve, non si può più andare avanti alla stessa velocità in 27, ho già tolto la Gran Bretagna, bisogna cominciare veramente a avere un cuore europeo di nazioni molto ben amalgamate che viaggino alla stessa velocità o provino a viaggiare alla stessa velocità. In questo Macron, se l'Europa impara la lezione e se Macron, giovane europeista, riformatore com'è, porta una ventata di novità, potremmo avere delle interessanti sorprese. Perché infatti lui era europeista per l'Europa, ma dicendo che va rifondata, no? Insomma, anche se questo lo dice ed anche... è quello che insomma è veramente lapalissiano, cioè questo non ci sono dubbi. Altra lezione però importante, gli ignoranti perdono, perché insomma è bastato vedere il dibattito mercoledì per vedere un imbarazzante Marine Le Pen, veramente imbarazzante in materia di economia, sembrava una studentessa con il bigino all'esame universitario, con tutti questi dossier in cui si perdeva continuamente. Forse i francesi, e qui potrebbero dare una bella lezione anche a tutti, anche a noi italiani, forse i francesi lanciano un segnale, meglio non affidarsi a chi non ha competenze e meglio affidarsi a chi invece le cose quantomeno un po' le ha studiate. A questo proposito ricordo appunto che, come dicevo prima, Macron è stato ex ministro dell'economia di Hollande, poi ne è uscito fondando questo suo movimento En Marche, e a proposito dell'Europa sentiamo anche lui che dice difenderemo l'Europa. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donné les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos nostro entreprises. Modo di essere liberi, di portare i nostri valori, difenderò l'Europa, insomma, dice. Però bisogna tener conto, Sergio, che Marine Le Pen ha comunque ottenuto 11 milioni di voti e fra l'altro oggi nella sua prima uscita Macron si è incontrato con l'attuale presidente, poi domenica ci sarà il passaggio di consegne, è uscito con Hollande, sono andati all'Arco del Trionfo in occasione del 72esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, però mi pare che già ci sono degli scontri, delle manifestazioni di operai e di studenti. A chi non è riuscito a parlare quindi Macron, se Marine Le Pen ha comunque ottenuto 11 milioni di voti? Macron, al di là di a chi non si è riuscito a parlare, Macron è stato votato anche un po' come unica possibilità, insomma, da chi ha votato le repubblicane, cioè Fillon al primo turno, da alcuni melanchonisti, cioè l'estrema sinistra. Anche dai socialisti. Perdonami Sergio, ricordiamolo infatti che Macron nel primo turno del ballottaggio aveva ottenuto il 24%, mentre adesso il 66%, ma appunto come ricordavi tu, sia con i voti dei repubblicani che si sono turati il naso, dei socialisti, di alcuni della sinistra radicale, perché sappiamo che Fillon e anche l'esponente socialista hanno detto, perdendo al primo turno, vabbè, i voti convogliati verso Macron, no? Quindi ha avuto questo contributo. Ecco, quindi Roberta, non è un assegno in bianco, una cambiale in bianco. Certo. I francesi in questo poi sono, insomma, sono un popolo che si sa far valere, per cui si sono affidati a lui, anche affascinati in molti dal suo essere giovane, carismatico, innovatore, ottimista, portatore di una visione di futuro. Però il messaggio sottinteso, e ho potuto parlare anche ieri all'Esplanade du Louvre con alcune delle persone che erano lì a sostenere Macron, è: però ti misureremo sui risultati, occhio, non è una fede assoluta, un mistero di fede per cui crediamo in te e nel tuo progetto. Per cui, per quanto riguarda invece le proteste cui accennavi, insomma, ricordiamo anche che non sono esattamente sostenute dai sindacati, sono delle frange di sindacati, perché insomma sia sindacati che la Confindustria francese, MEDEF, su una cosa sono stati sostanzialmente d'accordo, meglio Macron che Marine Le Pen. Quindi è sicuramente una visaglia, però diciamo la Francia ora è in luna di miele con Macron. Quanto durerà, difficile dirlo, bisogna anche vedere il voto di giugno adesso. Questo suo movimento En Marche, i punti principali quali sono? Appunto, lo abbiamo detto, la visione di un'Europa, ma un'Europa rinnovata, dicevi tu anche un ministro dell'economia e delle finanze comune, e poi ovviamente lui poi la visione aperta, non ha avuto, diciamo, elementi xenofobi, omofobi, no, nella sua campagna, come invece Marine Le Pen, quindi anche questo è un senso di apertura, di sguardo al futuro. Modo... Macron è qualcuno che è conscio di un mondo che è cambiato, di un mondo che è globale e che vuole sicuramente portare avanti delle riforme anche nel lavoro, nel fisco, nella disoccupazione, nelle pensioni, che vadano nella direzione di un affrontare questa globalizzazione per in qualche modo governarla, che è stato il grande errore alla fine, diciamo, dell'Europa, di tante classi dirigenti che infatti sono uscite e sono veramente sconfitte negli ultimi anni, nelle elezioni degli ultimi anni, cioè affidarsi in modo forse un po' troppo spensierato e fiducioso in questa globalizzazione, che poi ha creato degli squilibri molto forti, quelle delle localizzazioni in primis, che hanno chiaramente creato forti fratture all'interno della nostra società, con una minoranza sempre più ricca che si è arricchita ulteriormente e chiusure di fabbriche che hanno poi portato creato disoccupazione, quindi povertà. È un chiaro caso la Francia dell'Est, dove infatti Marine Le Pen ha avuto anche ieri risultati molto, molto alti. Quindi Macron è sicuramente una persona competente, su questo non si può veramente non lo si può negare, è una persona che ha studiato, che sa quello che vuole e che ha probabilmente capito che non possiamo opporci, come poi dice Marine Le Pen, chiudiamo le frontiere, rintaniamoci nella nostra piccola Francia, fuori tutti. Non possiamo opporci a qualcosa che è in atto, cioè una globalizzazione, però dobbiamo saperla governare. Se riesce in questo intento, centrerà la sua missione. È un compito molto difficile, chiaro, ma penso personalmente Macron abbia le competenze per poterci provare, quantomeno. Sergio, abbiamo ancora pochi secondi, tu devi dirmi da 1 a 10 in questa vittoria quanto può aver inciso, contato la sua straordinaria storia d'amore con la moglie, conosciuta quando lui aveva 16 anni, lei aveva 24 anni di più, sono sempre insieme da circa 23 anni. Da 1 a 10? Ma difficile dirlo, anche perché appunto non ho seguito poi qui a Parigi l'intera campagna elettorale, ma solo questo. Però diciamo ha avuto il suo aspetto di fascino questa cosa, no? Tanto sì, però, consenso. Guarda, secondo me non è elevatissimo. No, adesso dare un numero difficile, magari un 4, un 5, ma non. Ha fatto parte del suo carisma globale, diciamo così, un po' sì, più completato la figura. Era una storia Roberta già conosciuta, non è sbucata all'improvviso. Ma tanti, diciamo, i più forse, no? Anche qui in Italia, le persone comuni, diciamo, difficilmente magari sapevano di questa cosa. Comunque, insomma, è l'aspetto, diciamo, bello, un po' romantico, ma direi a questo punto di chiudere qui, di salutare il nostro Sergio Nava da Parigi. Grazie, caro Sergio. Sergio. Ciao, Roberta. Ciao. Buon nuit. E adesso, prima di lasciarci per una breve pausa, uno sguardo ai vostri messaggi. Vi ricordo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Elena scrive: se si crede all'Europa si dovrebbe dire che la prima visita di Macron è europea, in Germania, e non estera. Elena, nel senso, è il primo viaggio estero in assoluto, perché poi, proprio di pochissimo fa, sto guardando che prossimamente Presidente, il 25 maggio sarà a Bruxelles in quel vertice NATO, in quell'occasione incontrerà Trump, poteva anche decidere, che ne so, di andare a visitare Trump per primo, quindi in assoluto fuori dalla Francia in questo senso. Mentre c'è Giacomo da Bergamo che dice: a me spiace che una donna non sia diventata presidentessa di Francia, lei no, si può dire anche presidente perché è un participio presente, la presidente, il presidente, però Giacomo, mi fa piacere che a te dispiace che una donna non sia presidente della Francia, piacerebbe anche a me, in questo caso devo dire Marine Le Pen con il suo programma, i suoi valori, a me non piaceva moltissimo, tra lei e Macron ho preferito Macron, tra Hillary Clinton e Donald Trump preferivo Hillary Clinton, insomma, quindi. E poi per altri messaggi, stavo guardando anche sulla pagina Facebook, Vittorio dice: meno male che ha vinto Macron. E poi Davide scrive: i francesi hanno capito che era in gioco il destino dell'Europa, non solo della Francia. Ci ritroviamo tra pochissimo, eh? Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie, ve le ho raccontate tutte nella prima parte, in sintesi le principali naturalmente, poi abbiamo parlato diffusamente del risultato delle presidenziali francesi con la vittoria di Macron, quello che può significare per l'Europa, un po' anche il profilo del candidato che ha vinto nel ballottaggio di domenica contro Marine Le Pen, e poi i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio c'è l'ascoltatore Enzo che dice: che tristezza Roberta, ho sentito fior di giornalisti dire Macron fortunato banchiere tecnocrate come Monti, non ho sentito, scrive Enzo, parlare di coraggio, passione, amore, idea di Europa che Macron, marciando sull'inno della gioia e non sulla Marsigliese, ha voluto trasmettere. E poi invece c'è Francesco che dice: finalmente una donna all'Eliseo, Angela Merkel, perché se vi ricordate la dichiarazione finale di Marine Le Pen nel duello televisivo con Macron era stato quello: comunque vada, vincerà una donna in Francia, sarà presidente della Francia, o io, cioè stessa Marine Le Pen, o Angela Merkel, insomma, naturalmente in tono polemico lo aveva detto. Direi adesso di, se volete, continuiamo in parte su questo argomento, perché l'ospite che tra poco presenterò naturalmente esperto del tema, e poi ci muoveremo anche verso altri argomenti. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo che i fatti principali sono questi. Presidenziali francesi, inizia l'era Macron, domenica il passaggio di consegne con Olanda, all'Eliseo poi andrà dalla Merkel, e la sinistra radicale già sul piede di guerra in Francia, ci sono state oggi tensioni a un corteo, manifestazioni di protesta di operai e studenti. Barack Obama a Milano, l'ex presidente americano è nel capoluogo lombardo, in tilt per i blocchi stradali, insieme a Renzi chiama Macron per congratularsi, domani sarà ospite del vertice internazionale sull'innovazione nel cibo, Seeds and Chips, The Global Food Innovation Summit. Migranti, ne parleremo tra pochissimo, sono 200 morti in due naufragi all'arco della Libia, da inizio anno sono arrivate oltre 43.000 persone in Italia. L'incendio a Pomezia ha sequestrato l'impianto, la procura di Velletri ha incaricato l'ARPA di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. Per l'inchiesta Consip, l'ex dirigente della centrale di acquisti della pubblica amministrazione Gasparri conferma: ho preso 100.000 euro da Romeo, l'imprenditore in carcere da marzo. Legge elettorale, prove di dialogo tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il mare, arrivano le bandiere blu, di cui parleremo. La Liguria si conferma al primo posto, a seguire Toscana e Marche. Saluto subito Matteo Villa. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera a voi. Ricercatore dell'ISPI per l'area Europa, l'ISPI ve lo ricordo, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. E Matteo è giusto libero per noi, perché stasera c'è questa cena a porte chiuse, chiusissime, di Obama proprio all'ISPI, vero Matteo? Bene, sì, mi sono liberato proprio per voi, perché stavo con la forchetta in mano ancora. Assolutamente sì. No, insomma, è stato un piacere comunque stringergli la mano, perché è successo anche questo, e penso che sia una persona che ha fatto la storia e che ormai è già sui libri di storia, quindi che se ne possa ripensare, insomma, un presidente che davvero ha cambiato in parte gli Stati Uniti, e in parte ne possiamo anche parlare adesso quando parliamo di Macron, perché come hai detto benissimo, ha sentito Renzi, ha sentito Macron, ci sono delle convergenze parallele, insomma. E tra l'altro, insomma, da ulteriore lustro all'ISPI, dove poteva cenare a porte chiuse Obama se non questa sera all'ISPI? Questo vi dice tutto. Matteo, senti, per quanto riguarda ancora uno strascico, insomma, delle presidenziali francesi, no? Macron ha vinto con una campagna europeista che potrebbe essere letta anche come una, diciamo, una decisione, una scelta controcorrente in un momento in cui l'Europa, l'animo, insomma, della collettività europea, dei popoli europei, diciamo, non ha un, è piuttosto invisa, se vogliamo dire, no? E lui invece ha scelto di fare questa campagna, e quindi è stato coraggioso? Sì, è stato coraggioso, gli è andata bene perché diciamo che i partiti tradizionali francesi gli hanno dato una grossa mano. Da una parte il Partito Socialista si è squalificato quando alle primarie ha scelto Manuel Valls invece di candidati, diciamo, più di rottura, quindi era visto un po' come in continuità col regime, dall'altra parte con, insomma, con l'establishment, dall'altra parte il centrodestra con Fillon, preso dagli scandali e, diciamo, con un leader come si è fatto da parte. E però sì, assolutamente un messaggio importante in questo momento, però non è finita. Tra un mese si va a votare all'Assemblea Nazionale e se Macron, con un programma riformista anche difficile da applicare, perché da una parte vuole rientrare dal deficit e dall'altra parte vuole fare più investimenti, si ritrovasse senza una maggioranza precisa l'Assemblea Nazionale, a quel punto sarebbe tutto da vedere se riuscirebbe a applicare veramente questo programma. Infatti c'è un ascoltatore che scrive: speriamo in un successo della Le Pen alle amministrative di giugno e che la destra estrema abbia un ruolo importante in Europa rimettendo le dogane con guardie armate. Vabbè. E, a proposito di chi invece diciamo non ha rapporti, o meglio sta divorziando, ecco, dall'Europa, Theresa May ai suoi elettori ha detto: datemi un mandato forte come quello di Macron, però naturalmente per andare in una direzione opposta, no? Perché sappiamo che a giugno, no, si vota in Gran Bretagna sulla Brexit. Esattamente, subito prima delle presidenziali francesi c'è anche questo voto abbastanza cruciale per May, che devo dire in una situazione direi molto più forte di Macron, che ne pensi lei, perché di fatto, visti tutti i sondaggi, sembra andare verso quasi una, quello che si dice una landslide, cioè si vince quasi dappertutto, che vuol dire poi presentarsi in Europa. Lei dice con una mano più forte, io dico con una mano meno debole, cioè ha bisogno di arrivare forte a una trattativa che sa benissimo sarà difficile. Difficile il negoziato. Ricordo, scusami Matteo se ti interrompo anch'io, ricordo che Theresa May ha sciolto le camere nei giorni scorsi, quindi si tornerà a votare perché lei vuole, no, avere una, diciamo, un'investitura ancora più forte sul percorso che deve fare per portare definitivamente la Gran Bretagna fuori dall'Europa. Esattamente, e qui vi faccio soltanto questo brevissimo esempio. Pensate che il Regno Unito è uscito e uno dei temi importanti era quanto paghiamo nettamente l'Europa, e loro pagano circa 10 miliardi all'anno. Se l'Europa, come pare, presenterà un conto che sono 100 miliardi, si è girato nei 100 miliardi, è come se il Regno Unito uscisse, rinunciasse ai diritti di voto, all'accesso al mercato unico, ma dovesse pagare 10 anni d'Europa in più. È chiaro che sono, diciamo, momenti molto tesi. Allora, invece, i momenti tesi sono anche sulla questione migranti, no? Sull'emergenza migranti, Matteo Villa, perché sappiamo intanto che continua la strage, perché dopo la morte di circa 80 persone in un naufragio che è avvenuto 2 giorni fa, con la morte anche dello scafista, c'è stata una nuova tragedia che si è consumata sempre al largo della Libia. Sarebbero morte almeno 113 persone, sono disperse in mare, ma insomma in genere si sa come va a finire quando si parla di persone disperse in mare, dopo un naufragio di un gommone avvenuto ieri al largo di Azzawiya. Ne ha dato notizia l'OIM, l'Organizzazione per le migrazioni, e dopo il boom di sbarchi nel fine settimana, oltre 6.000 persone sono arrivate in Italia, salgono a 43.245 gli arrivi di migranti nel 2017, il 38,5% in più dell'anno scorso, ed è stato questo l'anno record, e naturalmente sono destinate a continuare. Tu sai che c'è stata questa, e continua questa polemica sui sospetti mossi dal procuratore di Catania, che domani sarà sentito dalla commissione antimafia, sulle possibili collusione tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani. Sì, qui appunto si va, diciamo che sono argomenti che ormai sono praticamente politici, sì. Perché quando un procuratore fa dichiarazioni, diciamo, senza portare evidenze, ma parlando di sospetti e dicendo che c'è un'indagine in corso, diciamo che chiaramente si entra nel territorio della politica e chiunque può dire qualunque cosa, quindi ci si schiera pro o contro, e chiaramente cercherò di non farlo, però devo dire è un clima di sospetti per forza, perché in questo momento non si parla che di sospetti, e questo non aiuta l'operato di ONG che chiaramente poi si espongono alle critiche perché operano lì dove Frontex non vuole andare, cioè vicino alle coste libiche. Insomma, è chiaro che qui ci si divide per forza tra chi pensa che si debba fare di tutto per salvarle e chi cerca invece di scoraggiare gli arrivi. Ecco. Qualche giorno fa il Presidente della Commissione Europea Juncker ha detto che l'Italia ha tenuto alto l'onore dell'Unione Europea nel fare, darsi da fare finché ha potuto e come continua a fare sui migranti. No, però rimane, abbiamo parlato altre volte, Matteo Villa, questo nodo della collaborazione da parte degli altri paesi europei. Non so a che punto stia per chiudere, giusto, sì, per chiudere tendo, adesso. No, è a zero e quindi ecco, chiaramente anche quest'anno dobbiamo fare tutto noi. C'è da dire questo. Si parlava anche di appunto andare direttamente a salvare i migranti sulle coste libiche. Questo è un problema anche di gestione del fenomeno. C'è anche chi dice aiutiamoli a casa loro. Basta andare a vedere i dati. Se tu aiuti un paese molto povero, aumenti all'inizio il fenomeno migratorio. Quindi è un fenomeno complesso che va gestito senza paura. A mio parere l'Italia al momento ha le risorse per farlo. Se fosse un pochino più diciamo sgamata, andrebbe anche addirittura a selezionarsi dei migranti, sono dei problemi etici, ma lo fa il Canada per esempio, e questo ci aiuterebbe a colmare per esempio il nostro grande gap demografico che andrà allargandosi nei prossimi anni. Va bene, Matteo Villa dell'ISPI, allora ti faccio ritornare alla cena a porte chiuse con Obama, salutacelo da parte nostra, da parte della 24 effetto notte, e buon lavoro a te, buona serata. Grazie, buon divertimento, grazie. Ciao Matteo, di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo adesso in pochi secondi, le principali, sempre con voi Roberta Giordano. Allora, dicevamo appunto delle presidenziali francesi che inizia l'era Macron e domenica ci sarà il passaggio di consegne col presidente uscente Hollande. La prima visita fuori dalla Francia per Macron sarà quella alla cancelliera Merkel a Berlino. Poi Barack Obama che è a Milano, l'ex presidente americano nel capoluogo lombardo in tilt per blocchi stradali, insieme a Renzi ha chiamato Macron per complimentarsi. Migranti, ne abbiamo appena discusso. Sono 200 morti in due naufragi al largo della Libia. Da inizio anno sono arrivate oltre 43.000 persone in Italia. L'incendio a Pomezia, di cui parleremo tra pochissimo, e poi legge elettorale, prove di dialogo tra PD e Movimento 5 Stelle, della qualità del mare anche con l'arrivo delle bandiere blu, parleremo tra poco. L'incendio divampato venerdì a Pomezia, vi ricordate, all'azienda EcoX che tratta materiali di recupero, ha prodotto questa enorme nube nera minacciosa a sud di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi aveva chiesto a 21 comuni lì intorno di prendere precauzioni, di tenere le finestre chiuse. Abbiamo sentito, era ospite qui a Effetto Notte venerdì, il sindaco di Pomezia, della città pontina a sud di Roma, Fucci, e che aveva detto che appunto anche lui di prendere precauzioni e attendeva i risultati delle analisi dell'ASL perché c'era il rischio di diossina nell'area anche di amianto. La procura di Velletri intanto ha disposto il sequestro dell'impianto della EcoX. Ne vorrei parlare con Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Buonasera Scacchi. Buonasera, buonasera. Ci dice in sintesi al momento se ci sono dei risultati da questa, dall'agenzia ARPA, l'agenzia dell'ambiente, dall'ASL sull'inquinamento dell'area? No, gli unici risultati che ci sono quelli che riguardano il PM10 e quelli che riguardano le basi azotate, che sono i caratteri che si monitorano costantemente e che riguardano più il traffico e il veicolare e i riscaldamenti. In realtà per le analisi della diossina probabilmente ci vorranno ancora un giorno o due da parte di ARPA per avere dei risultati sulla qualità dell'aria. Per quanto riguarda l'amianto invece, Scacchi? Sì, l'amianto è un'altra situazione, nel senso che se è accertato che nell'azienda c'era amianto, tettoio oppure tutto il tetto in amianto, evidentemente l'amianto non può prendere fuoco, è ignifugo, però evidentemente se con quel grande incendio potrebbe essersi disperso nella prossimità in varie fasi, sperando che però il grande calore abbia inertizzato l'amianto, perché l'amianto si inertizza proprio nei forni, negli altoforni a grande calore. Scacchi, quindi siamo ancora in attesa dei risultati di queste analisi, bisogna aspettare ancora qualche giorno? Sì, Sì, bisogna aspettare ancora qualche giorno, ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana, perché poi ci saranno da monitorare non solo lo stato della qualità dell'aria, ma quello del suolo, del terreno su cui poi sarà ricaduto la diossina eventualmente bruciata, e sperando che non sia andata ad incappare in terreni a pascolo o agricoli. Certo, sarebbe un gravissimo danno. Ci auguriamo di noi, aspettiamo allora questi risultati. Grazie Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Grazie, grazie, buon lavoro. A voi, buonasera. Ora invece parliamo della qualità di qualcos'altro che ci fa un po' più sorridere, ci allieta l'animo, almeno a chi piace il mare. 30ª edizione delle bandiere blu sono state assegnate come sempre dalla FEE, la Foundation for Environmental Education Italia. Il mare più pulito sembra il nostro paese, 342 spiagge hanno avuto la bandiera blu, il 5% di quelle a livello mondiale, e sulla base di 32 criteri. Ne voglio parlare con Claudio Mazza, che è presidente della FEE Italia. Buonasera Mazza. Buonasera a voi. Quindi davvero il nostro mare sta così bene, la Liguria si conferma regina, vedo arrivando a 27 località col vostro premio di bandiere blu, poi la Toscana con 19 località con le bandiere blu, le Marche 17, poi seguono le altre regioni. Quindi qualità del mare buono, insomma, da noi. Ma diciamo che il trend è sicuramente positivo, questo dimostra tante amministrazioni che si stanno impegnando fortemente sulla sostenibilità. Bandiera blu è prima ancora di essere un ecolabel, un marchio di qualità ambientale internazionale, è un percorso che i comuni scelgono di intraprendere. Un percorso che comunque impostato a quello che è una politica magari di piccoli passi, ma cose molto concrete che nel tempo poi determinano il cambiamento, no? Una filosofia del miglioramento continuo. Mazza, perché ricordiamo che in cosa consistono questi 32 criteri che voi di tanto in tanto aggiornate, perché molti pensano bandiera blu, immagino il blu, pensano solo alla qualità dell'acqua, del mare. Per esempio, le dico, Francesco scrive: a Rosignano Livorno bandiere blu con stabilimento chimico della Solvay sul mare. Qualcuno si dice: com'è possibile che ci sia la bandiera blu in un luogo magari dove c'è un'azienda poco distante, oppure dove l'acqua non sembra trasparente? Sì, come lei diceva, la qualità delle acque di balneazione è il primo paletto di accesso, no? Deve essere classificata come eccellente negli ultimi 4 anni. Dopodiché ci stanno tutta una serie di altri indicatori che sono il depuratore, la gestione dei rifiuti della referenziale in particolare, gli agli fognari che devono essere almeno dell'80%, per quello che riguarda la spiaggia, la sicurezza bagnanti, l'accessibilità, la differenziata in spiaggia, e poi tutti altri aspetti che seguono, che riguardano esattamente la gestione del territorio, quindi per iniziative per la sostenibilità, quindi gli aspetti energetici, magari le chiusure del centro storico e la creazione di piste ciclabili. Quindi tanti servizi sono, insieme alla qualità dell'acqua, sì, e diciamo la gestione sostenibile del territorio. Sì, assolutamente, è quello che fa di una località sostenibile. Quindi vedevo Liguria prima, Toscana seconda con 19 località, Marche terza con 17, la Campania raggiunge 15 bandiere, quindi al quarto posto con un nuovo ingresso che è Sapri. Sì, che è Sapri. La Puglia mantiene le sue 11, l'Abruzzo va a quota 8 con 2 nuovi ingressi, cioè Giulianova e Roseto degli Abruzzi. L'Emilia-Romagna perde una bandiera scendendo a 6. Il Veneto e il Lazio confermano le 8 bandiere del 2016 e poi la Sardegna è presente con 11 località, la Sicilia raggiunge le 7 bandiere con l'ingresso di Santa Teresa di Riva, poi c'è la Calabria, il Molise eccetera. E certo, uno si aspetta che la Sardegna sia al primissimo posto, però evidentemente avrà l'acqua pulita, ma non ha tutta una serie, non tutte le località sarde evidentemente avranno tutta quella serie di... Ma stanno crescendo, stanno lavorando bene. Poi l'assegnazione di questo Ecolab è un po' la punta dell'iceberg, poi ci sono tanti comuni che stanno facendo il percorso, ci sono comuni che intraprendono pur sapendo di non avere tutti i requisiti e magari ma stanno cercando di raggiungerli. Benissimo, e glielo auguriamo, in modo da avere un'Italia che sia anche attraente, sempre più attraente anche per gli stranieri. Grazie Claudio Mazza della FEE Italia. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. E noi ci fermiamo brevemente, poi ci riaggiorniamo alle 22.